Venezia è una delle poche città al mondo che possono essere veramente definite uniche. Sopravvive a dispetto di tutti i pronostici, costruita su una serie di banchi fangosi nel mezzo dell'Adriatico e regolarmente soggetta a inondazioni. Un tempo potenza commerciale e navale del Mediterraneo, Venezia ha saputo ritagliarsi un altro ruolo. I palazzi sono stati trasformati in negozi, hotel ed appartamenti. I magazzini sono diventati musei e i convetti sedi di ristauro artistico. Ciò nonostante, poco della struttura di Venezia è stato alterato negli ultimi 200 anni. Infatti, una guida alla città pubblicata prima della Seconda Guerra Mondiale è valida oggi come allora, caso raro in un continente dilaniato dalle bombe aeree con successiva ricostruzione e sviluppo.